questo giovedì 6 ottobre. Intanto uno sguardo ai titoli. Con il Sole 24 Ore, Berlino pronta a salvare le banche. Questo è il titolo appunto del Sole, mentre le intercettazioni sono l'apertura per il Corriere. Linea dura sulle intercettazioni, carcere per i giornalisti, divieto di pubblicare anche i riassunti. Tra l'altro aggiungo io, è stato proprio l'onorevole Paniz che qui a questi microfoni ieri preannunciava il carcere per i giornalisti, poi ha fatto un emendamento in tal senso. Per Repubblica, PDL, ultimo assedio a Tremonti, così il Messaggero, il PDL contro Tremonti. La Stampa, intercettazioni, blitz del PDL. Per il Fatto Quotidiano, crisi e licenziamenti, ma lui vuole il bavaglio. Bavaglio alla Stampa anche per il Secolo XIX, mentre attenzione all'apertura del Giornale, c'è una foto del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il titolo è «I messaggini proibiti di De Magistris, tra il sindaco e la PM che lo indagava, 517 telefonate e 129 sms, tutto normale?». Questa è l'apertura del Giornale. Per Libero, i furbetti del quattrino. Della Valle spara sulla politica, ma lui e Montezemolo beccano milioni di euro pubblici. Per l'Unità, senza rating, e c'è Tremonti e Berlusconi in lite in prima pagina. Queste alcune delle aperture. Insomma, vedete, l'attualità politica sono le intercettazioni, ma anche il rapporto pare giunto ai minimi termini, anche se, ripeto, è una storia sfilacciata nei mesi tra Tremonti e Berlusconi. Questo è nella politica che vedremo più avanti. Prima però le consuete segnalazioni di altro taglio. E oggi voglio partire dal Giornale, pagina 15, con questo articolo: «Gli onorevoli inglesi fanno fiasco di vino». Racconta Gaia Cesare in questo articolo. C'è una parlamentare britannica, Sarah Wollstone, da anni impegnata in campagne contro l'abuso di alcolici, che fa una denuncia incredibile. In tanti in Parlamento vengono in aula, britannico, così ubriachi da non reggersi in piedi, e poi votano. E racconta il Giornale: attanagliati dai rimorsi per le misure anticrisi da votare in tempo di austerity, concentrati sulle leggi che segneranno la storia della prima legislatura a maggioranza Tory dopo 12 anni di New Labour, ma che? Semplicemente ubriachi fradici, sbronzi come può essere sbronzo un inglese nella migliore tradizione british, bevuti in maniera bipartisan, rigorosamente. La denuncia di questa parlamentare Tory è diretta ai colleghi deputati di ogni gusto alcolico e colore politico. Alcuni di loro vengono in Parlamento, ha detto, too drunk to stand, cioè talmente ubriachi da non reggersi in piedi. Una vicenda scioccante, una denuncia scioccante. Alcuni di loro arrivano qui ubriachi, non sanno neppure cosa devono votare, sono talmente storditi dall'alcol da limitarsi semplicemente a eseguire come un automa gli ordini di scuderia del partito. Insomma, stando a questa denuncia pagina 15 del Giornale, poi uno si lamenta del Parlamento italiano, verrebbe da dire. Vedete, c'è sempre chi sta peggio di noi, sempre a credere a questa denuncia di questa parlamentare britannica. Voglio invece raccontare due vicende che riguardano la RAI e che sono dettagliate da Libero a pagina 7, l'aumento dello stipendio dell'amministratore delegato, o meglio, del direttore generale della RAI, Lorenza Lei. La RAI vota l'aumento alla Lei. Oggi il CDA della TV di Stato, racconta Libero, alzerà lo stipendio da 420.000 a 650.000 euro. Certo, meno dei 730.000 che guadagnava il suo predecessore Mauro Masi, e la Lei voleva quel aumento per essere equiparata al suo predecessore, ma assai più dei 300.000 euro che il consigliere Angelo Maria Petroni aveva messo come tetto massimo, invocando la circolare Brunetta sugli stipendi pubblici. Ma Lorenza Lei si è impuntata, pare ci sia stata una battaglia, insomma, dal punto di vista delle richieste economiche, e arriverà a guadagnare più di quel tetto messo da Brunetta per i dipendenti pubblici, da 300. Infatti arriverà a guadagnare 650.000 euro. E scrive Libero, insomma, un bel salto in avanti nell'azienda pagata dal canone degli italiani. A proposito di Rai, racconta invece il Fatto Quotidiano a firma Carlo Tecce a pagina 7, la Rai ha assunto come responsabile della sicurezza 200.000 euro l'anno, questo è lo stipendio, chi? Luciano Campoli, il quale è un ex agente dei servizi segreti dell'attuale AISE, l'ex SISMI. Era nel gruppo di Marco Mancini, il numero 2 del SISMI, mentre il generale Pollari dirigeva la struttura, racconta il Fatto Quotidiano, e si occuperà della sicurezza in Rai. Rai presenta 007, va in onda il servizio segreto. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 7. Luciano Campoli, assunto come addetto alla sicurezza, è un ex agente segreto. Il direttore generale Lei conferma di averlo scelto per proteggere l'azienda. L'abbiamo preso per le sue competenze. 24 mattino. Allora sono 7:33 minuti. Beh, intanto voglio rispondere. Giustamente ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Ma come, non date la notizia di Steve Jobs che è morto? Questa è la notizia arrivata nella notte. Ne abbiamo parlato, a dire la verità era l'apertura del nostro giornale radio delle 7, chiaramente sui giornali, e visto che qui si leggono i giornali, non è che me li possono inventare, questa notizia non c'è, perché appunto è una notizia che è stata diffusa alle 2 di questa notte, ci sarà sui giornali di domani, ma è chiaro che è una notizia importante. Tra l'altro poco fa anche il presidente Obama ha detto: il mondo perde un visionario. È morto infatti il presidente, il fondatore della Apple, Steve Jobs, questo nella notte. In ogni caso, le notizie di politica sono concentrate sul tema intercettazioni. Ieri l'onorevole Paniz qui aveva preannunciato: ci vorrebbe il carcere per me, o comunque una sanzione di rilevanza penale per i giornalisti che pubblicano ciò che non deve essere pubblicato. Detto fatto, ha presentato un emendamento al riguardo. Oggi l'ho intervista anche il Corriere della Sera, riprende un po' la nostra intervista di ieri e poi rilancia, insomma, Paniz dicendo: è più grave secondo voi il furto aggravato di una mela, che è punito col carcere da 3 mesi a 3 anni, o la violazione del segreto d'indagine con la pubblicazione illegale di un'intercettazione irrilevante ai fini penali che finisce per distruggere la privacy di una persona? Ve la ricordate o no quella ragazza che in tutti i modi sta tentando di dimostrare che lei non è una escort? Io da avvocato ne ho visti troppi di clienti finire nel tritacarne, per questo ho sofferto con loro. Insomma, stretta sulle intercettazioni, così titola pagina 2 il Corriere della Sera, niente pubblicazione fino all'udienza filtro, le dimissioni anche di Giulia Bongiorno, onorevole di Future Libertà, da Presidente della Commissione Giustizia, sarà nostra ospite alle 8:20. Il magistrato antimafia Nicola Gratteri, invece intervistato da Repubblica, pagina 4, dice: giusto conoscere ogni atto degli eletti a incarichi pubblici. Dice Gratteri: è sbagliato mettere la sordina all'informazione, fanno bene in America, dove pubblicano tutti gli atti relativi alla vita di chi è stato votato dagli elettori a ricoprire incarichi pubblici. Per me i cittadini che votano hanno diritto a sapere tutto delle persone che dicono di lavorare per il bene del paese. Ciò che vogliono proporre oggi c'era nel codice Rocco. Era una restrizione che consentiva di tenere segrete notizie che riguardavano i governanti, ad esempio dopo la strage di Bologna o durante il sequestro Moro. Si tratta dunque di un regresso storico del paese, in contrasto con quanto sostiene la Corte Europea del Diritto dell'Uomo, secondo la quale, al contrario, i cittadini devono essere informati il più possibile sulla classe politica che li amministra. Insomma, il tema è sempre quello: cosa è giusto e lecito sapere, fin dove ci si deve spingere perché non ci siano violazioni della privacy nella pubblicazione delle intercettazioni sui giornali. Di certo un passo avanti è stato fatto per rassicurare il mondo molto vasto degli autori di blog, degli autori, di coloro che si esercitano sui social network, come nella nostra pagina Facebook 24 mattino, perché è stato fatto un passo indietro rispetto alla questione della rettifica. Nel disegno di legge sulle intercettazioni c'era infatti questo emendamento, questo comma che prevedeva, per chiunque si sentisse diffamato, il diritto di avere una controreplica, una rettifica da pubblicare sul blog che avesse nel caso diffamato questa persona senza controreplica da parte degli autori del blog. Un qualcosa che aveva anche allarmato Wikipedia a dire così ci state blindando, ci state oscurando. Ebbene, tutto questo è parzialmente rientrato. La protesta della rete, blog esclusi dalla rettifica. Il bavaglio, infatti, scrive Melania Di Giacomo, scritto tra virgolette, bavaglio, rimane per i giornali online registrati al tribunale. Sono salvi, invece, dall'obbligo di rettifica e dalle sanzioni i blog, i social network e Wikipedia. Ecco così che la protesta contro la legge sulle intercettazioni in questo aspetto, che ha mobilitato il popolo del web in difesa della libertà di informazione, ha raggiunto l'obiettivo. Insomma, è stata cancellata la norma, rimane solo il diritto di rettifica, solo in caso, l'obbligo di rettifica in caso di testate registrate, ma non i blog, non i social network. Comunque, di intercettazioni ne parleremo certamente con l'onorevole Buongiorno alle 8:20. L'altro tema politico che c'è sui giornali sviluppato è quello del rapporto dato ormai ai minimi termini storici tra Berlusconi e Tremonti. Su tutti i giornali si sviluppa questo tema. Nel PDL processo a Tremonti, così titola pagina 15 Il Sole 24 Ore, monta l'ira nel partito contro il ministro del Tesoro. Sullo sfondo c'è sempre anche la nomina di Banca Italia. Sapete che il candidato tremontiano è Grilli. È anche il candidato della Lega con Bossi, che continua a insistere: mettete alla Banca Italia il milanese, no? Siccome è di Milano. Mentre invece il candidato più accreditato a Palazzo Chigi è Saccomanni, l'attuale direttore generale della Banca Italia. E su questo c'è stato un vertice anche tra Berlusconi e Tremonti, un faccia a faccia dal quale, scrive il Corriere, è uscita una fumata nera. Oggi è previsto un nuovo faccia a faccia, racconta Lorenzo Fuccaro a pagina 8, dai contenuti mantenuti, se si vuole, top secret. In realtà qualcosa emerge dai giornali. Per esempio, il retroscena di Repubblica, di Francesco Bei, ma anche degli altri giornali, è che sia stato un faccia a faccia con liti furibonde. A un certo punto, quando Berlusconi ha detto sulla crescita ci giochiamo tutto, e Tremonti ha detto io quella frase sulla Spagna, parlavo del caso spagnolo, eppure i tuoi mi sono saltati alla gola senza nemmeno curarsi della smentita. Ma quando poi Berlusconi gli ha chiesto cosa potesse fare il governo per sottrarsi agli attacchi dalla speculazione, Tremonti ha affondato il pugnale. Silvio, ma ancora non l'hai capito? Il problema sei tu. Insomma, questa frase, che non solo Repubblica ma altri giornali dicono, anche il Corriere della Sera, abbia tirato fuori Tremonti a un certo punto di questo faccia a faccia, beh, ha fatto sbottare certamente Berlusconi. Il cavaliere ormai mi minaccia, così a pagina 9 del Corriere della Sera, retroscena di Marco Galluzzo. Non sappiamo più che fare, dicono sconsolati, ammettendo l'impotenza a Palazzo Chigi, perché pare che proprio, tra l'altro, Tremonti, finché non la spunterà sulla nomina di Grilli a nuovo numero uno di Banca Italia, non recederà su questo tema dello scontro frontale. E insomma, il problema sei tu, questa frase ha detto Tremonti a Berlusconi. Il secolo XIX oggi va letto a pagina 3, perché su questo fronte del rapporto Tremonti-Berlusconi offre un punto di vista inedito, sugli altri giornali non c'è, firma Francesco Bonazzi, e che è interessante. Scudo sui fondi in Svizzera, il premier niente nomi. E voi dite, che c'entrano lo scudo e i soldi in Svizzera su questo tema? Beh, lo scontro con Tremonti, racconta Francesco Bonazzi, sarebbe su questo. Non c'è solo il braccio di ferro su chi debba andare a fare il governatore di Banca Italia, ad aver riportato ai minimi storici i rapporti tra Berlusconi e Tremonti. C'è soprattutto la gestione della delicata partita con la Svizzera per stringere un accordo sulla tassazione dei capitali esportati illecitamente. Secondo quanto risulta al secolo XIX, nelle ultime settimane vi sarebbero state fatte pressioni e ingerenze di Palazzo Chigi sulla riservata e durissima trattativa che il ministro del Tesoro sta conducendo con le autorità elvetiche nel tentativo di assicurare rapidamente alle bisognose casse italiane un flusso di denaro cospicuo. Qual è il tema dello scontro? È che sarebbero custoditi in Svizzera almeno 800 miliardi scappati dal fisco inglese, tedesco, francese e anche italiano. Secondo valutazioni sarebbero 200 miliardi quelli sfuggiti al fisco italiano, sul quale Tremonti sta contrattando una specie di patrimoniale secca del 20% sullo stock di capitali che rientrassero e che dovessero rientrare in Italia. Ma lo scontro con Berlusconi sarebbe questo, secondo il secolo, che Tremonti vorrebbe anche i nomi, almeno non di tutti i contribuenti italiani con i conti svizzeri, ma almeno la lista delle persone political exposed, cioè delle persone, insomma, dei personaggi pubblici, quelli che potrebbero avere anche legami con la politica. E su questo, invece, sempre secondo la ricostruzione del secolo, Berlusconi avrebbe detto no, va bene fare la battaglia per far entrare i capitali, ma tutto in segretezza, con una sorta di condono tombale, senza far sapere alcun nome delle persone titolari di questi conti in Svizzera. Dunque questo è un nuovo fronte, scudo sui fondi Svizzera, il premier, niente nomi. Tra l'altro oggi Giuliano Ferrara, che ieri in TV un paio di volte ha detto a Berlusconi che vuole lasciare, se la prende ancora nel titolo del suo editoriale contro una fine ingloriosa, contro queste liti, cari Berlusconi, Tremonti, Cicchitto, varia nobile gente di governo, ora basta, come direbbe quel cafone di Della Valle. Siete stati eletti nel 2008 su un programma di riforme liberali da fare il culo ai passeri. Berlusconi si è presentato alle Camere dicendo mi occuperò di crescita economica e sviluppo, perché quello è il nostro problema. Poi si è dovuto occupare di mozzaorecchi, autori della campagna che lo ha assediato da Casoria al Casorubi, determinando per colpa dei suoi arcinemici e anche sua personale una situazione surreale. Però poi, insomma, alla fine Ferrara dice basta, dateci da fare, basta romperci i maroni col debito, di fare il verso ai declinisti di talk show, dagli scarpari di talento che si mettono sulla ruota degli aspiranti monopolisti delle ferrovie. Fate la voce grossa in Europa, Berlusconi la smetta di essere cattivo umore, ritrovi il suo talento, affronti il contraddittorio, si scusi per le cazzate che ha fatto e contrattacchi su tutta la linea. Mi piace la plastica come alla Santanchè, ma voglio vedere Berlusconi a Ballarò, che spiega la realtà, la verità dell'economia italiana a quella platea indottrinata con abilità da un Floris e dai suoi esperti di sondaggi. Voglio il contraddittorio, l'appoggio determinato a Marchionne. Voglio una battaglia per fare la round table degli industriali seri. Insomma, tutto questo, se no, senza sangue di tigre e bistecche di leone, si avvicina a una fine ingloriosa. Insomma, un Ferrara che dice basta, lottate, altrimenti verso la fine. C'è un retroscena, da cui ripartiremo dopo il traffico e l'apertura del giornale oggi. Qualcuno dirà è inchiesta, qualcuno potrà dire ecco si muove già la macchina del fango. Il titolo di apertura del giornale di oggi è questo: i messaggini proibiti di De Magistris tra il sindaco di Napoli e la PM che lo indagava, 517 telefonate e 129 sms. Tutto normale? Il traffico. E allora, pagina 3 del giornale, c'è questo titolo, ma è l'apertura di prima pagina: gli sms proibiti tra la PM e De Magistris. Lei indagava su di lui, eppure si sono scambiati 517 telefonate e 129 messaggi. Tutto archiviato. È normale? Gianmarco Chiocce e Massimo Malpica raccontano telefoni caldissimi dal 4 giugno 2008 al 25 marzo 2009 nel pieno della guerra tra procure Salerno e Catanzaro, 295 giorni di intensi contatti, quantomeno poco ortodossi, 517 chiamate, 129 sms tra Luigi De Magistris e la PM salernitana Gabriella Nuzzi, che quell'estate indagava sull'ex collega sia come parte lesa che come indagato. Il GIP ha archiviato tutto, ma insomma in tutto l'articolo del giornale si sottolinea con delle espressioni rapporti normali, manifestazioni di rapporti diventati informali, è normale questo scambio di telefonate. Si ricorda anche una interrogazione parlamentare al proposito dell'onorevole Amedeo La Boccetta, che chiese in Parlamento: evidentemente costei, cioè la PM, praticava e determinava nei confronti del dottor De Magistris una funzione rilassante, come possiamo dire distensiva, un feeling creatosi tra i due sconvolgente, che deve avere avuto la stura di un rapporto di tipo particolare, evidentemente di grande intimità. Insomma, tutto questo oggi, a proposito di, insomma, di momento in cui si parla appunto di privacy e quant'altro, pubblicato in prima pagina dal giornale. A proposito di inchieste, ancora c'è moltissimo sulla vicenda di Perugia. Questo processo certo non finirà mai, a parte che non è finito perché manca il terzo grado di giudizio, la Cassazione, ma non finirà mai anche nelle polemiche, negli strascichi che si trovano sui giornali. Per esempio, il giudice di Perugia, che ieri aveva fatto una breve intervista, ieri ha incontrato i giornalisti, il giudice Pratillo Hellman, colui che ha emesso la sentenza, ha incontrato i giornalisti e ha detto una frase che tecnicamente e giuridicamente è ineccepibile, ma certo dà la stura a nuove polemiche, ed è questa, è riassunta così dai titoli: assolti, ma forse sono colpevoli. Beh, insomma, che certo, un titolo non ha detto proprio così, ma ha detto questo: io non posso sostenere che Rudy Guédé sia il solo a sapere cosa è successo quella notte. Di certo lui sa e non l'ha detto. Forse lo sanno anche i due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, perché la nostra assoluzione è il risultato della verità che si è creata nel processo. Ma la verità reale può essere diversa. Loro possono essere responsabili, ma non ci sono le prove. Forse dunque sanno anche loro ciò che è successo quella notte, ma a noi non risulta. E ripeto, dal punto di vista del garantismo e delle procedure dibattimentali è ineccepibile. Voglio dire, non è che bisogna trovare un colpevole, ma il colpevole e provarlo soprattutto. E a volte si sa e si dice la realtà processuale è diversa dalla realtà reale, se mi permettete il gioco di parole. Però certo, il giudice di Perugia: assolti, ma forse sono colpevoli. Questo è il titolo del Corriere della Sera. E c'è ora lo sfogo di Rudy Guédé, che è stato visitato in carcere, lo racconta il Messaggero, da un consigliere, Ivano Peduzzi, consigliere regionale del Lazio. Meredith, la rabbia di Guédé: io in cella e Amanda a casa. Anche per Repubblica: in cella esplode l'ira di Rudy, sono l'unico a pagare, ora voglio un altro processo. Se loro due sono innocenti, allora lo sono anch'io. Si sfoga Rudy Guédé, insomma, ripeto, accusato di concorso in omicidio con altri due, ma gli altri due non ci sono. Ora, il padre di Amanda Knox, invece intervistato da Repubblica, Kurt Knox, intervistato da Angela Quaro, dice da Seattle: mia figlia è stata picchiata dalla polizia, certo, dice, ha fatto anche lei degli errori, è stata naif, un po' ingenua. Sulla terminologia, il linguaggio del corpo, le magliette, magari All You Need Is Love, una volta indossò questa maglietta, oppure quel messaggio a Patrick Lumumba: ci vediamo. Diciamo che è stata un po' troppo naif. Certo, ma aveva solo 20 anni e nei suoi comportamenti non si rendeva conto delle profonde differenze culturali tra Italia e America. Amanda, che comunque già diventerà una star, questo a detta di tutti. Voglio chiudere con l'intervista. Oggi ci saranno i funerali delle 5 vittime di Barletta. Sono tante polemiche per quello che ha detto il sindaco di Barletta, Nicola Maffei, che in qualche modo ha giustificato il fatto che queste persone che hanno perso la vita lavorassero per 4 euro all'ora in nero. Oggi Nicola Maffei fa un'intervista all'Unità e non recede da questi propositi. A pagina 13, intervistato da Ivan Cimmarusti: se devi sfamare i figli, accettare lavoro nero è un peccato veniale. chi oggi criminalizza le mie parole e demonizza Barletta andasse a dire alla madre di famiglia disoccupata che quotidianamente deve sfamare i propri figli, che non deve accettare lavoro nero. Questo è il sindaco di Barletta, Nicola Maffei, del Partito Democratico. Non ci sta a essere accusato di giustificare il lavoro sommerso. Dice: hanno male interpretato, ma ribadisco, non ho mai detto che la legalità non debba essere rispettata, ma l'uomo o la donna che accettano il lavoro nero perché non hanno altre fonti di reddito, direi che fanno un peccato veniale. Questo però non significa che vada promossa l'illegalità. Mi chiedo, se un uomo sta morendo di fame e si mangia il cibo che trova per la strada, capisco che viola i principi del rispetto delle regole igienico-sanitarie, ma che fa? Muore di fame? Questo il sindaco di Barletta, Nicola Maffei. Ci fermiamo, c'è il giornale radio.